Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Vi preannuncio già che abbiamo un po' di fermento in studio, dobbiamo parlare di pensioni, il tema naturalmente confermato perché abbiamo organizzato la nostra puntata di Salva Danaio in coincidenza con un grande evento che il Sole 24 Ore sta tenendo proprio in questi minuti, proprio in questo istante si sta sedendo al tavolo appunto del nostro studio, presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. Lo faccio sistemare con le cuffie. Presidente, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Aspettavamo tra qualche minuto, ci fa piacere invece che riesce addirittura a partire con noi con la nostra trasmissione. E allora, sono state al centro della tanto discussa riforma Salva Italia, vissuta naturalmente anche un po' sulla pelle di tutti noi cittadini che dovremo fare nei prossimi mesi molti sacrifici, perché conoscete bene l'entità, la portata e le novità di questa manovra. Ne abbiamo parlato tante volte a Salva Danaio e le novità che sono arrivate interessano tutti noi perché rappresentano per una grande parte di questa manovra anche la tranquillità del nostro futuro. Il tema di cui parliamo questa mattina, le pensioni, vi dicevo perché il Sole 24 Ore oggi ha organizzato un grande evento, Tutto Pensioni 2012, una giornata aperta al pubblico realizzata in collaborazione con il Ministero del Lavoro e l'INPS, e credo che il Ministro del Welfare Elsa Fornero abbia terminato il suo intervento proprio da pochissimi istanti. La prima parte del convegno ha visto invece la presenza del presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, si è conclusa poco fa. Nel pomeriggio ci saranno relazioni degli esperti del Ministero del Lavoro, INPS e Sole 24 Ore, e io segnalo ai nostri ascoltatori ma anche ai lettori del quotidiano che si possono seguire i lavori in streaming sul sito www.ilsole24ore.com. L'evento sarà inoltre trasmesso su Rete Economy, canale 816 di Sky. I quesiti dei lettori saranno raccolti fino alle 18 di oggi su www.ilsole24ore.com/tuttopensioni. Le risposte degli esperti del Ministero, dell'INPS e del Sole saranno pubblicate da martedì 20 marzo, da domani, sulle Sole 24 Ore sul sito. Domani c'è un'edizione speciale appunto del quotidiano. C'è anche un numero di telefono a cui ci si può rivolgere, e sono disponibili appunto degli esperti che stanno rispondendo ai quesiti di tutti coloro che formulano questo numero. Il numero è lo 02 30 30 00 30 ed è attivo per tutta la giornata di oggi, lo è da questa mattina alle 9:30 fino alle 16:30, quindi vi ho dato tutta l'informazione di servizio che è utile appunto che voi conosciate per poter interagire nella maniera migliore possibile con questa iniziativa, e speriamo appunto di potervi aiutare ad intercettare un esperto che oggi risponda alle vostre domande. Anche Radio 24 sta seguendo l'intera giornata, non poteva mancare una puntata speciale di Salva Danaio dedicata a questo argomento, anche perché la trasparenza è uno degli obiettivi della riforma. Quella che era la cosiddetta giungla delle pensioni deve diventare, il ministro Fornero lo ha detto più volte, un contesto chiaro, comprensibile, facilmente fruibile. Oggi anche noi proviamo a fare questo passo rispondendo alle vostre domande sul tema previdenziale. Vi ho già presentato e fatto salutare il presidente dell'INPS, e con noi ci aiuterà anche l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista, esperto in materia previdenziale per il Sole 24 Ore, ormai è diventata la prima firma su questi argomenti sul quotidiano. Avvocato, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi. Perché la sentiamo spesso. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Ci potete anche scrivere a salvadanaio@radio24.it, potete animare il dibattito sul nostro profilo Facebook, siamo anche sul social network salvadanaio-radio24. Vorrei farvi fare un po' i giornalisti. Presidente Mastrapasqua, quali sono gli aspetti più importanti che sono usciti dal convegno di questa mattina? Io ho avuto modo di seguirlo solo per una mezz'oretta, però mi sembra che i temi trattati siano stati naturalmente tanti. È un momento caldo per il settore previdenziale nel nostro paese. Che cosa è emerso di particolarmente interessante? Ma è emerso innanzitutto la, mi sembra abbastanza diffusa consapevolezza che la transizione verso la definitiva riforma delle pensioni è di fatto compiuta, l'ha confermata anche il ministro 20 minuti fa dicendo che si è completato un ciclo iniziato 20 anni fa, quindi lunghissima transizione, è finito questo ciclo e si è fatto anche quello che oggi viene apprezzato in tutta Europa come il miglior sistema previdenziale a livello europeo. Dall'altra parte indubbiamente sono emersi a fronte di tante novità, alcune delle quali e sicuramente la maggior parte positive, alcune piccole criticità. Il ministro, devo dire con grande consapevolezza, ha detto che ha preso un impegno a far sì che entro il 30 giugno, che era il termine previsto dal decreto mille proroghe per l'emanazione del decreto interministeriale per la definizione dei criteri per i cosiddetti, chiamiamole esodati, ma oggi poi col mille proroghe si sono allargate queste categorie, ha preso un impegno di emanare un decreto che possa cercare di risolvere tutti i problemi. Lo ha riconosciuto, le risorse sono inferiori a quelle che sono le attese, però ha detto la riforma delle pensioni ha avuto un driver di equità, la stessa cosa dovrà essere questo decreto, ovvero tentare di dare o dare a chi avrà più bisogno, a chi ha più bisogno, la maggior parte di tutele possibili, a chi forse ha un po' meno bisogno chiedere un piccolo ancora sacrificio. Tolto questo, quello che è emerso oggi in queste due ore di interessantissimo dibattito è che finalmente si è finito il sistema e il progetto, il grande cantiere delle pensioni. Oggi inizia forse un cantiere ancora più impegnativo, che è quello della educazione previdenziale, perché le novità sono tantissime. Se non si spiegano, veramente rischiamo di non dare quel giusto conforto, quel giusto apporto a tutte quante le persone di conoscere qual è il sistema e, conoscendolo, di capire che cosa bisogna fare, perché oggi bisogna fare anche delle scelte nel momento in cui si lavora. Se non si hanno le competenze, le conoscenze, non si fanno, e forse poi può essere troppo tardi. Quindi su questo saremo sempre più impegnati. Il tema dell'educazione previdenziale visto a 360 gradi, da una parte dove sta andando il pubblico, dall'altra parte cosa deve fare invece il ramo integrativo complementare. Tra l'altro lei parlava di un sistema pensionistico la cui ultima riforma appunto porta a compimento, e ha ricordato nel suo intervento, sono riuscita a sentire questa sua parte, negli ultimi 20 anni ci sono state 6 riforme e 24 interventi normativi. Quindi insomma è stato, come dire, un meccanismo legislativo molto intenso quello che si è... Certo, e questo poi ha contribuito ad avere una grande... lei prima parlava della giungla previdenziale. La giungla previdenziale era un po' tutto. Oggi sfido una persona a capire il tasso di sostituzione, il coefficiente di trasformazione, in che età bisogna andare in pensione, contributivo, misto, retributivo. Ecco, è tutto un insieme di difficile lettura, sia sulle cose del passato ma su quelle del futuro. Oggi vanno con serenità, non tanto alimentate nuovamente speranze di cambiamenti, perché io l'ho detto prima e devo dire che l'hanno riconosciuto tutti, per troppi anni si è usato il sistema previdenziale ad ogni uso e consumo, ovvero serviva qualche piccolo intervento per qualche piccola categoria, si è preferito in modo assurdo, io dico, modificare un sistema complesso come quello delle pensioni e non fare degli interventi come quelli sul mondo del lavoro e degli ammortizzatori sociali. Oggi il sistema c'è, non può e non deve più essere modificato se non per quella che è la giusta manutenzione che ogni norma deve avere, ma questo va spiegato, capito, attuato e utilizzato, perché il sistema previdenziale va anche utilizzato. C'è un salvadanaio, ci si mettono dentro i soldi, bisogna capire quanto ci si mette, come vengono rivalutati. Oggi è emerso cosa sconosciuta è più. Il salvadanaio si rivaluta in base alla media del quinquennio della crescita del PIL. Ecco, immaginate come oggi, quello che tutti non hanno mai pensato, pensioni, previdenza non è solo quando vado in pensione, ma me lo costruisco durante la vita lavorativa. Se non cresce il paese, non cresce neanche quel montante. Ecco, pensate che rivoluzione rispetto al vecchio sistema retributivo. Allora, avvocato Falasca, abbiamo detto con il presidente Mastrapasca che dobbiamo fare anche un lavoro appunto di educazione previdenziale. Allora, per esempio, anche per cominciare a chiarire un po' alcuni dei termini che abbiamo utilizzato fino a questo momento, mi spiega chi sono i lavoratori esodati, così lo facciamo capire a tutti qua. In che condizioni si trovano in questo momento questo tipo di lavoratori, in una sorta di limbo, no? Perché magari attraverso accordi aziendali hanno dovuto rinunciare al posto di lavoro, ricercare il trattamento pensionistico in termini anticipati, ma ancora non hanno tutti i requisiti per poter accedere a questo trattamento pensionistico. Come si vive in questo limbo? Esattamente, allora diciamo così, intanto se posso rivendicare un po' che la categoria l'abbiamo scoperta subito dopo l'approvazione della riforma proprio sulle pagine del Sole. Diciamo che è un po' la definizione non rappresenta bene, però ormai sono diventati esodati e li chiamiamo così. Diciamo, sono tutte quelle persone che prima della riforma Fornero avevano deciso volontariamente di lasciare il lavoro avendo nel proprio orizzonte temporale una certa data come data di accesso alla pensione. Sapevano che sarebbero andati al 1 di luglio del 2013, al 10 gennaio del 2014 e così via, e sulla base di quella data che per loro era certa hanno fatto un certo tipo di ragionamento che le ha portati ad accettare l'uscita dal lavoro. Concetto che tante volte ho sentito dire si chiamava dello scivolo per molti lavoratori. Sì, esattamente sì. Cioè, guardi, io poi nella mia attività professionale le potrei dire già un centinaio di nomi di esodati, di persone che io ho convinto, diciamo, nell'ambito di strutturazioni aziendali ad uscire dicendo ok, fissiamo la vostra data di pensionamento, l'azienda mette delle risorse, l'uscita con delle risorse, diciamo, mette delle risorse fino a quella data e poi si va. Tra l'altro le racconto un episodio curioso. Nel mese di luglio scorso era un tavolo sindacale e un sindacato insisteva moltissimo per una clausola di salvaguardia, dire se cambiano le regole cambiamo, e io al tavolo, facendo oggi la figura dello scemo, dicevo ma vi pare che cambiano nuovamente le regole a luglio? Immagini che capacità di previsione. Si è ribaltato il mondo. Vabbè, diciamo quello che è successo nei mesi successivi difficilmente era prevedibile, però insomma la crisi ha accelerato la... E questo è il tema che stamattina mi sembra emerso con maggiore centralità, cioè se capisco bene il nodo veramente risolto è questo, perché la riforma Fornero ha il merito di essersi fatta carico del problema, però ha fotografato in maniera purtroppo abbastanza parziale la categoria, cioè nella fotografia che è uscita fuori dal decreto legge, dalla successiva legge, non ci sono tutti quelli che sono usciti dal lavoro avendo in mente una certa pensione. Come mai non è possibile avere una... più o meno attendibile, non dico esatta. No, è un problema di platee, e purtroppo ad ogni ampliamento di platea corrisponde un costo maggiore, come ci potrebbe dire il Presidente, un costo maggiore per l'Istituto di Previdenza, e quindi credo che sia un problema di risorse oggi. Cioè, diciamo, il riconoscimento, l'individuazione di ulteriori platee sarebbe possibile, però già il decreto mille proroghe ha aggiunto altri soggetti su insistenza anche del Sole, su cui abbiamo fatto una piccola battaglia, però ha lasciato invariate le risorse. Con il paradosso che quelli che prima erano rientrati nell'esenzione oggi si vedono salire sulla scialuppa, che però ha sempre indietro. È come se avessimo una scialuppa a 10 posti e ci aggiungiamo persone che possono salire sopra. La scialuppa prima o poi non tiene più. Allora ci fermiamo su questo argomento, però visto che lo abbiamo ormai sollevato, poi vedremo se è il caso di continuare su questo terreno o esploreremo anche altri aspetti della riforma delle pensioni, la riforma di Natale l'abbiamo chiamata in ogni modo, la legge 201 dello scorso anno. Sentiamo Marcello da Pavia, così almeno definiamo una volta per tutta la questione degli esodati. Marcello, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scuso per il livello della voce, purtroppo. La sentiamo benissimo, Marcello, benissimo. Non si preoccupi. Allora, io l'anno scorso di questi tempi ho accettato consensualmente di interrompere il mio rapporto di lavoro e, d'accordo con l'azienda, abbiamo optato per una soluzione di un contratto a tempo determinato, dopo essermi consultato con l'INPS, che mi consentiva con 2 anni di maturare i 40 anni più l'anno, la finestra che c'era allora. Ecco, la mia domanda è questa, quindi io ho continuato a lavorare, ho un contratto a tempo determinato che scade tra un anno, perché io non sono considerato un esodato, punto. Marcello, la ringrazio, perché ha stipulato il contratto a tempo determinato, mi volete rispondere, Presidente Mastrapasqua, perché veramente lavora. Per fortuna Marcello lavora e quindi non fa parte delle persone che hanno perso il lavoro, però ecco, oggi il Ministro l'ha detto bisogna ben ripeterlo, questo è un problema che si porrà dal 1 gennaio 2013 per alcune categorie e poi gradualmente andando avanti negli anni. Quindi c'è un anno pieno, che è tutto il 2012, per studiarlo, ragionarlo, e il ministro, quindi chi più del ministro, che si è impegnato a risolverlo. C'è una data che è il 30 giugno, giorno entro il quale va fatto un decreto. Si capisce, nessuno di noi nega l'ansia delle persone. Ecco, c'è un anno davanti e ci sono 3 mesi per fare un decreto. Per verificare se la scialuppa può essere ampliata, quindi, come capienza. Quindi ecco, non è un problema che se non si risolve oggi ha domani il problema. Il problema esiste, nessuno lo vuole negare, non lo vuole sottacere, ma si potrà verificare dal 1 gennaio 2013. Abbiamo richiesto al cielo 9 mesi davanti e solo altri 3 mesi per vedere cosa il governo farà nel momento in cui emanerà il decreto. Quindi la volontà e la serietà del governo, del Parlamento, che ha allargato, come diceva prima l'avvocato, le categorie, c'è stata tutta. Oggi vediamo e verifichiamo il 30 giugno cosa uscirà dal decreto. Eccoci di nuovo insieme oggi, Salva Danaio, in collaborazione con il Sole 24 Ore. Naturalmente partecipa attivamente all'iniziativa Tutto Pensioni 2012, un grande convegno questa mattina nella sede del Sole 24 Ore, che prosegue nel pomeriggio anche con un gruppo di esperti che si metteranno a disposizione della platea per spiegare ancora più nel dettaglio cosa è cambiato con la recente riforma Monti e Fornero. Con noi questa mattina, al termine della prima parte di Tutto Pensioni, il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua e l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista, esperto in materia previdenziale per il Sole 24 Ore. Stiamo cercando di rispiegare di nuovo le novità più importanti introdotte con questa riforma. Molti aspetti stanno ancora facendo discutere, perché naturalmente, come sapete, la novità più importante è stato il passaggio secco al trattamento pensionistico futuro con il sistema contributivo, per cui andremo in pensione sulla base dei contributi che avremo effettivamente versato nel corso della nostra vita lavorativa. Avvocato Falasca, ci sono molte domande di molti ascoltatori, sia al numero verde che al 349-238-6666, che facendoci degli esempi specifici relativi alla situazione individuale ci chiedono: io ho un tot di età anagrafica, non tocchi molto il microfono perché si sente molto all'esterno, e ho versato tot contributi, quando andrò in pensione? Allora, partendo da non un singolo caso, perché poi è difficile trattarle tutti individualmente, ci dà un po' l'ABC per capire come faccio oggi, stante la mia situazione, a capire quando ragionevolmente potrò andare in pensione? Dove possono e come informarsi su questo i lavoratori? Intanto lo dico con piacere qui che c'è il presidente dell'INPS, possono consultare il sito dell'INPS, che è fatto molto bene e ha il pregio abbastanza poco diffuso nei siti pubblici di essere sempre molto aggiornato, e quindi sicuramente il sito dell'INPS è un punto di partenza che anche noi professionisti consultiamo con molta tranquillità, diciamo, perché sappiamo di trovare lì dentro risposte scritte bene in maniera chiara. E poi documentarsi, leggere i giornali, seguire anche eventi come questi, perché capisco che non è facile orientarsi. Devo dire che queste regole nel medio e nel lungo periodo renderanno più facile capire la previdenza, perché non scordiamoci da dove veniamo da un sistema che diciamo aveva un qualcosa di perverso, anche perché c'era un complesso di regole che diciamo erano figlie di compromessi e aggiustamenti a volte privi di una razionalità. Non ci scordiamo cosa stava per succedere con i riscatti delle lauree. Io non scorderò mai quel giorno che scrivemmo 2 articoli durissimi, non era ancora ministro, ma anche Elsa Fornero scrisse un pezzo durissimo, e diciamo spesso le norme in maniera previdenziale sono nate in questo modo. Quindi il vantaggio di questa riforma è che nasce da un disegno che ha una sua razionalità, e uno degli aspetti su cui puntavo la riforma è la trasparenza anche del rapporto con il pensionato o con il pensionando, cioè ti dico con chiarezza cosa ti accadrà. L'emblema è il sistema delle finestre. Prima diciamo c'era la maturazione del requisito della pensione, e poi c'era questo ulteriore periodo di attesa che veniva chiamato finestra di scorrimento, per cui una cosa che sfugge, che onestamente era difficile da spiegare. Ora è stata inglobata la finestra nel requisito, cioè dici il tuo requisito è ad esempio i vecchi 40 anni, adesso i 42 anni e un mese, e quando poi lo maturi vai in pensione. Nel complesso diciamo le novità più importanti, quelle che di impatto maggiore sui cittadini, sono fondamentalmente due, cioè la scomparsa delle pensioni di anzianità, per cui quello che una volta era il sistema delle quote, altro elemento di particolare complicazione, questo aveva una sua maggiore razionalità, però comunque era un elemento di complicazione. Viene meno il sistema delle quote e si dice che appunto in pensione si va tutti a una certa data, che è la data della pensione di vecchiaia. Pensione di vecchiaia che attendere al regime sarà fissata a 67 anni più i mesi che cresceranno con la crescita della speranza di vita, e ci sono dei piccoli passetti di avvicinamento a questa data. l'unica alternativa a questa ipotesi è andare con la cosiddetta pensione anticipata, che significa che se si lavora per 42 anni e un mese nel caso degli uomini o 41 anni e un mese nel caso delle donne, si può anticipare la data della pensione di vecchiaia. Quindi ecco, diciamo che la strada per capirci qualcosa è più facile, semplicemente perché ci sono regole più chiare e più comprensibili. Poi che siamo più pesanti, siamo d'accordo, diciamo. Presidente Mastrapasqua, allora, un'altra grande certezza, non della riforma, ma soprattutto, come dire, del principio demografico, il nostro è un paese che invecchia, dove nascono sempre meno bambini, è che l'assegno pensionistico pubblico sarà via via, che procediamo appunto con gli anni, sempre più magro. E paradossalmente in questo momento l'INPS sta anche facendo un lavoro, mi permetta il termine, di sponsorizzazione del tema della previdenza complementare, perché oggi come dire, l'individuazione dell'assegno del futuro non può più prescindere dal fatto che si debba cominciare contestualmente anche un percorso integrativo che poi integri la previdenza pubblica del futuro. Ci spiega un po' che tipo di lavoro sta facendo, che immagina di fare l'INPS anche per aiutare i lavoratori a cominciare a concepire una strada previdenziale integrativa utile per il futuro? Sì, innanzitutto mi volevo collegare a quello che diceva l'avvocato. Noi prima della riforma avevamo non solo dei sistemi abbastanza eterogenei tra di loro, ma avevamo anche una distinzione all'interno delle stesse categorie che rendevano tutto complicato. C'era una grossa differenza tra uomini e donne, tra uomini e donne se erano dipendenti o se erano autonomi, quindi non si capiva perché la finestra era 12 mesi se eri indipendente e 18 se eri autonomo, quindi tu devi aspettare. Tutta la riforma porta a quella che è stata chiamata come la data di convergenza, ovvero nel 2018, che in termini pensionistici è tra un minuto, immaginate, tutto converge verso un unico parametro, quindi non c'è più distinzione tra sessi, tra tipi di lavoro, tra tipologie di lavoratori, e questo è eccezionale, perché non si capiva perché prima dovevano essere diversi, e questo alimentava una grande confusione ma anche una disparità di trattamento tra le persone. Secondo, il sistema sicuramente ha un impatto dal punto di vista dei tassi cosiddetti di sostituzione diverso. Oggi il Sole 24 Ore fa un esempio che addirittura dimostra come pre e post riforma Fornero le pensioni, ovvero il tasso di sostituzione, aumenta con la riforma Fornero. Ma perché questo? È abbastanza semplice. Se si lavora di più e se quei contributi sono ovviamente pensionabili, cosa che prima non esisteva, quindi se prima uno lavorava 40 anni e voleva lavorare un anno in più, quei soldi li regalava allo Stato, quindi immaginate che la finestra sui 40 anni prima era un regalo allo Stato. Oggi quei soldi che uno versa nel proprio portafoglio, nel proprio salvadanaio previdenziale, rendono, e rendendo fanno ovviamente aumentare il tasso di sostituzione. Le faccio un inciso solo per spiegare agli ascoltatori che cos'è il tasso di sostituzione, che sostanzialmente è il primo assegno pensionistico in rapporto all'ultimo stipendio. Ecco. Esattamente. Però noi non ci possiamo limitare a dire che se il Sole 24 Ore autorevolmente fa degli esempi siamo tutti più tranquilli perché prenderanno di più, perché altrimenti diremmo che tutto il resto dell'Europa sbaglia e l'Italia è l'unico paese che invece è più diciamo nel giusto rispetto alla previdenza complementare. Ricordo due cifre importanti: Europa media 91% di persone che hanno la previdenza complementare, Italia 23, oggi si dice forse 24. Allora che cosa bisogna immaginare? Che se la previdenza complementare, ovvero se tutti i soggetti privati non riescono a sostenere la previdenza complementare, ecco, l'istituto, l'INPS, ma non lo dice l'istituto l'INPS, lo dice la legge, quindi l'ha detto il governo e il Parlamento, devono comunque attivarsi e aiutare la previdenza complementare. E l'ha detto anche il ministro oggi, ha detto un cruccio è che nella riforma non mi sono potuta dedicare troppo alla complementare, ma sicuramente c'è ancora il tempo davanti. Secondo lei quale potrebbe essere lo step dopo che la riforma Maroni ha portato appunto i lavoratori a poter far confluire il TFR nei fondi complementari? Quale altro step potrebbe essere utile? Oggi diciamo che gli strumenti ci sono tutti. Oggi serve far capire alle persone, non tanto spaventandole, ovvero dicendo guarda che tu non avrai la pensione perché avrai il 35%, oggi ho sentito anche il 37%, come fa qualcuno a dire 37% è abbastanza difficile, oggi ci sarà un tasso di sostituzione reale rispetto a quello che hai versato, per quanto tempo, a che età tu vorrai andare in pensione. A quel punto ti si dice, guarda che se tu appena cominci a lavorare, versi poco ma lo versi regolarmente, guarda che potrai incrementarlo. Se lo spieghiamo, se si spiega serenamente, senza demonizzare nel pubblico e tantomeno il privato, e senza far sì che il privato demonizzi il pubblico, anche perché io raramente vedo una persona che dice, beh, se il pubblico va male allora a questo punto ti verso di più. Beh, quella persona naturalmente andrà nel sommerso, quello che credo che noi tutti dobbiamo combattere e sconfiggere. Allora, con l'onestà intellettuale di dire, e quello lo sta facendo l'INPS con un sforzo di informatica incredibile, ovvero rendere a tutti quanti la conoscenza del montante contributivo, che non è poco. Se hai questa conoscenza e se si dirà sempre di più in tutti i modi che serve un secondo pilastro, avendo la disponibilità dei numeri, avendo la capacità e la possibilità di decidere quanto ti serve per incrementare e integrare la tua pensione, credo che facciamo un salto di qualità sicuramente civile rispetto al resto dell'Europa, che l'ha fatto tanto quindi tempo. Adesso ci sta dicendo che mancherebbe solamente uno sforzo comunicativo un po' più forte. Sicuramente. Quindi, avvocato Falasca? Sono d'accordo, poi diciamo, forse anche per eleganza il Presidente non lo dice, ma allora lo dico io. Qualche intervento anche, fiscale, no, rendere un po' più leggero. No, vado un po' più sul semplice. Quelli sicuramente esistono, ma secondo me c'è anche un problema ancora di professionalità dei fondi di previdenza complementare. Sono soggetti molto giovani, si sono affacciati sul mercato presto, però è uno di quei casi non diffusissimi in cui il privato è molto indietro rispetto al pubblico. E il Presidente, quindi, so che sostiene che è un mercato anche un po' troppo affollato quello della previdenza complementare. Beh, occorrerebbero delle razionalizzazioni. Diciamo che un mercato troppo affollato è vero che è totalmente democratico, ma poi ho usato un termine, può diventare anche abbastanza anarchico, perché quando abbiamo 500 e rotti fondi pensione più tutti i privati, delle banche, delle assicurazioni e quant'altro, e qualcosa non decolla, ecco, credo che l'eccesso di mercato stia creando un problema. Forse l'eccesso di mercato dà anche, come diceva l'avvocato, cito le sue parole ma le condivido, forse una scarsa professionalità a individuare un problema, a capirlo, a spiegarlo e a farlo comprendere a colui che poi deve firmare, e qualcosa che vale per tutta la vita. Ecco, sfido chi l'ha fatto, chi lo fa con modo molto sereno ma anche molto professionale. Spesso si dice, tanto l'INPS non ti darà niente, fai una polizza con me. Ecco, il modo peggiore per, così dire, vendere qualcosa a qualcuno che poi secondo me né lo acquista e né si fida. Per cui trasparenza e professionalità, ma soprattutto capacità di lettura di quanto costano questi prodotti. Io leggo i giornali come voi, quindi non mi reputo un cittadino normalissimo. Beh, molto spesso si vedono degli studi dove si dimostra che quello che si dice non è. Ecco, trasparenza, capacità di poter leggere le cose fanno stare tranquilli, perché è una decisione non per il domani ma per un futuro molto in là. Avevo promesso al Presidente che l'avrei lasciato andare qualche minuto prima del termine della trasmissione. Andiamo in via libera. Presidente Mastrapasqua, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo sicuramente presto. Allora, qua abbiamo un problema, che ci mancano 5 minuti prima della chiusura della trasmissione. Ci sono molti ascoltatori che hanno chiamato all'800240024, vorrebbero porre delle domande, io le vedo, sono tutte molto dettagliate e adesso è un po' complicato andare su ogni singola situazione e dare una risposta. Sai che cosa faccio, Marco? Anzi, Paolo, prendo la domanda di Sergio da Cremona, perché anche questo è un tema che abbiamo toccato poco fa e che l'avvocato Falasca conosce molto bene, che ci dà magari anche l'opportunità di chiudere sul tema eventualmente della totalizzazione dei contributi, della ricongiunzione di periodi previdenziali sparsi su più enti. Sergio da Cremona, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io sono un pensionato, però la domanda mia verteva sul riscatto degli anni di università dei miei due figli. Sì. Volevo solo sapere se questi 4 anni recuperati servono come anzianità o servono solo agli effetti economici, non ho capito bene. Grazie Sergio, sì, infatti l'avevamo toccato, sfiorato solamente prima questo momento. C'è stato un momento in cui sembrava che questi 4 anni di laurea, soprattutto perché li stava riscattando in questo momento, non si potesse decidere di non farli più valere ai fini del calcolo appunto della pensione. Questa circostanza è stata scongiurata. Allora, Sergio ha fatto questo investimento sui figli, gli ha riscattato subito gli anni di laurea. Ha fatto bene, secondo lei, avvocato Falasca? tasca? Beh, sì, sì, diciamo così che ora che il sistema previdenziale ha ripreso una sua serietà, ha fatto bene, perché diciamo con la vicenda dei riscatti purtroppo non possiamo non ricordarla, abbiamo toccato uno dei punti più bui del rapporto tra Stato e cittadino, mm-hmm. perché fu fatto un comunicato assolutamente incomprensibile alla lingua italiana. E noi ci trovammo, ad esempio, chi vi parla alle 9 di sera a cercare di decifrarlo. No, ma lo fece anche poi a mezzogiorno del giorno dopo, perché Salva Danaghi lo abbiamo organizzato immediatamente. E cercammo di capire se c'era scritto quello che leggevamo, e si diceva in sostanza che non valeva più il riscatto di laurea ai fini dell'anzianità, ma soltanto ai fini del quantum. La verità è che il motivo principale per cui si riscatta la laurea è farla valere ai fini dell'anzianità, certamente. Per accorciare. Certo è che diciamo è un investimento che va ponderato, probabilmente è un investimento che va fatto come ha fatto l'ascoltatore, cioè quando i figli sono giovani, perché in sostanza il costo del riscatto è molto inferiore. Non è basso peraltro, però insomma, diciamo, è proprio un bel investimento, il costo della macchina. Perché comunque diciamo oggi le storie contributive sono talmente complicate da rendere omogenee, per cui aggiungere già gli di laurea va bene, però diciamo un investimento che conviene solo a determinate condizioni. L'ascoltatore, avendo oggi di fronte un sistema previdenziale più onesto, io mi sento dire che ha fatto bene, diciamo. Mm-hmm. Un anno fa, con l'approccio che si stava prendendo alla previdenza, per cui ogni giorno era buono per tirar fuori qualche norma irrazionale, gli avrei detto che aveva buttato i soldi, mm-hmm. lo dico con franchezza. Però insomma, e lo tranquillizziamo anche sul fatto che questi anni valgono per l'anzianità. Valgono sia per l'anzianità che per il calcolo, sì. Per il contributo economico, sì. Appunto, finale. Avvocato Falasca, totalizzazione e ricongiunzione, anche questo è un tema che lei conosce molto bene perché ne scrive spesso sul Sole 24 Ore. Insomma, quando vale la pena cercare di capire se è il caso di fare anche un investimento di questo tipo, perché sono comunque delle operazioni onerose, e per quale si discuteva della gratuità peraltro tra per le la due? Ricongiunzione, tra l'altro stamattina al convegno l'onorevole Cazzola ne ha parlato, perché come lei sa, diciamo, il problema si è creato nel 2010 quando la ricongiunzione è diventata onerosa, con l'onerosità è spuntato un costo altissimo, cioè per alcune persone può essere anche di 100.000 euro, non la macchina, ma diciamo una quota, sì, mezza casa. Una mezza casa in una periferia, e allora per non perdere i contributi versati qua e là, diciamo o sia la ricongiunzione oppure sia la totalizzazione. Il vantaggio della totalizzazione è che è gratuita, ok, però si può ottenere solo a 65 anni e solo scegliendo di farsi liquidare la pensione con il sistema contributivo. Allora stamattina l'onorevole Cazzola si è fatto carico di migliaia di esodati, anche qui del 2010, che avevano in sostanza erano usciti dal lavoro ritenendo di poter ricongiungere diversi pezzi di storia lavorativa a costo zero, e queste persone sono ad esempio gli esodati Telecom, sono almeno due anni che stanno cercando di sensibilizzare tutti sul loro problema, e Cazzola è uno di quelli che in Parlamento ha provato a cambiare le cose. Stamattina ha dato una notizia che non so se è uscita nei lanci di stampa, ha detto che ci vuole 1,4 miliardi per far ritornare a... quindi non troveremo mai queste risorse, ecco. Infatti, avvocato Falasca, che le devo dire, avremmo dovuto discutere di altri 2 milioni di argomenti, non ce la facciamo, però da domani parte il nostro contributo quotidiano con la collaborazione dell'INPS sulla riforma delle pensioni, una pillola al giorno per farvi conoscere tutti i dettagli di ciò che sta cambiando. Potete continuare a prenotare su questo numero di telefono 02 30 30 00 30 le vostre domande, ci sono degli esperti del Sole che stanno rispondendo fino alle 16.30 di stasera. Con Tutto Pensioni è tutto, grazie a tutti, ci sentiamo domani.